America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The idea that we are having these ongoing disclosures of national security and classified information should be something that everybody is outraged in this country. Beh, abbiamo avuto un briefing ieri di Sean Spicer, il presidente è preoccupato per le rivelazioni di WikiLeaks, ne abbiamo parlato ieri, queste rivelazioni che in qualche modo mettono a nudo strategie tecniche della CIA per cercare di monitorare possibili nemici degli Stati Uniti. Ecco, devo dire, a parte questa dichiarazione non ci sono ancora molte novità, come non ci sono novità sul fronte della riforma sanitaria, perché la polemica in qualche modo da parte della destra repubblicana continua, ma c'è un'azione molto forte da parte del presidente e dalla leadership del Parlamento, con Paul Ryan in testa, il presidente della Camera, per cercare di spingere, per cercare di farla passare. Però, parlando di riforma sanitaria e di sanità, mi ha colpito oggi un articolo sul New York Times che raccontava le gesta da una parte del professor Carlo Croce, un professore che ha dedicato la vita allo studio del cancro per cercare di combattere il cancro, e però dietro questo racconto delle grandi cose importanti che ha fatto il professore, perché pensate, ha vinto oltre 60 premi, è riuscito ad avere dei finanziamenti complessivi per 89 milioni di dollari per la sua ricerca che fa al Medical Center della Ohio University, quindi è un personaggio italiano che in America ha fatto delle cose molto molto importanti. Pensate che ha scritto addirittura mille ricerche e le ha pubblicate, e però poi a un certo punto parte un attacco. Dice, beh, in qualcuna di queste ricerche, secondo alcuni critici, in particolare cita un professore di un'altra università, sono state commesse delle manipolazioni, la ricerca non era davvero quello che era, e così via, così via. Partendo da questo, ho deciso di andare direttamente alla fonte, perché il professor Carlo Croce non è soltanto un grande scienziato, ma è anche una delle nostre grandi storie tipiche del solo andata, di qualcuno cioè che a un certo punto ha preso un biglietto di solo andata ed è venuto in America. E ho con me ai microfoni America 24 proprio il professor Carlo Croce. Professore, buongiorno, mi sente? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, beh, dunque, intanto scusi, mi dica, qual è stata la sua reazione quando ha visto questo articolo sul New York Times che in qualche modo criticava il suo lavoro? Di completo shock, perché di fatto questo articolo non presentava nessuna prova per queste accuse. Io ho pubblicato tantissimi lavori, ma nessuno dei miei lavori è stato contestato criticamente da nessuno. Infatti anche l'articolo del New York Times non dice che alcun lavoro mio non fosse vero. Riportano semplicemente un paio di bande in un paper che ho pubblicato, credo, 13 o 12 anni fa, dicendo che un paio di bande sono state aggiustate. Dicono che ci sono appunto queste bande di tre e che una di queste bande è una duplicazione. E lei cosa dice? Ma potrebbe essere il fatto che quelle bande sono bande di controllo e sono tutte uguali. Quindi potrebbe essere che uno dei postdoc che ha fatto gli esperimenti per quel lavoro ha messo le bande in una maniera irregolare, vabbè, per uno sbaglio. Questo è senz'altro possibile. Quindi tutta l'accusa è di fatto di un paio di bande in una pubblicazione di 12 anni fa, pubblicazione la quale non è stata contestata da nessuno, è stata infatti confermata in diversi lavori successivi di diversi ricercatori. Ecco, senta professore, dunque, ma ci racconti la sua storia, cioè lei come arriva in America? Perché poi la sua storia è una storia che la porta a vincere addirittura 60 premi, riconoscimenti mondiali. Lei è considerato uno dei più importanti ricercatori del cancro al mondo. Il presidente Ciampi le ha dato l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Insomma, ci vuole ben altro che un articolo del New York Times per smontare questa carriera. Come comincia la sua carriera? Quando è che compra questo biglietto di solo andata? Il biglietto di solo andata l'ho comprato nel giugno del 70. E sono finito a Filadelfia, sono finito in un bel laboratorio dove ho imparato a lavorare all'americana e mi sono trovato quasi subito benissimo. I primi due mesi sono stati un po' duri, ma poi mi sono trovato benissimo e entro un anno e mezzo ho avuto la mia faculty position e poi ho avuto, pensi, al secondo anno nel quale erano negli Stati Uniti, ho avuto 3 grant dell'NIH. Quindi ho cominciato a lavorare come un ricercatore indipendente. Ecco, professore, se lei dovesse dire a un giovane che oggi sta pensando di venire in America, cosa gli dice? L'America è ancora quella frontiera dove si può andare, trovare e sognare? È ancora, lo vedo con i miei giovani. Sono entusiasti, vengono negli Stati Uniti, si trovano bene e vogliono rimanere, sviluppare la loro carriera qui in America. Fantastico per la ricerca. Ecco, al di là di questo articolo, ci dica quali sono stati, secondo lei, i contributi più importanti che lei ha dato alla ricerca sul cancro? La prima scoperta è stata che le traslocazioni cromosomiche che causano leucemia e linfomi attivano oncogeni. Questa è la causa della malattia. E questo è essenzialmente il principio di targeted therapy, della terapia al bersaglio. Dopodiché ho scoperto un altro gene importantissimo chiamato BCL2, che è la causa del linfoma follicolare, uno dei linfomi più comuni, e anche della leucemia linfocitica cronica. E dopodiché si è fatto un farmaco contro il BCL2 che è stato approvato dall'FDA solo poco tempo fa, qualche mese fa, e questo farmaco è assolutamente dinamite nel trattamento della leucemia linfocitica cronica, manda i pazienti in remissione completa. Queste scoperte sono state fondamentali e hanno fatto cambiare la visione di quello che è il cancro. Tutto basato su ricerca che abbiamo fatto nel passato, che finalmente, dopo tanti anni, è risultata nella formazione di farmaci che davvero hanno un effetto fantastico nel trattamento della malattia. Ecco, un'ultima domanda, professore. Guardando in avanti, molti che probabilmente ci ascoltano conoscono qualcuno che purtroppo soffre di cancro, qualche parente che ha avuto il cancro, e resta comunque una malattia molto difficile. Lei ha dato un barlume di speranza, ma sui cancri più difficili, il cancro al cervello, il cancro al pancreas, lei vede degli spiragli che a un certo punto potranno condurci alla sconfitta del cancro in generale? Certo, ci vedono questi spiragli praticamente in continuazione, si fa un progresso enorme, soltanto non ci si deve aspettare che dall'oggi al domani riusciamo a curare malattie complesse come il tumore del polmone e il tumore del cervello. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me il professor Carlo Croce. Professore, che canzone vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Ci faccia sognare. Io sceglierei una musica di Leonard Bernstein, di West Side Story, America. È molto appropriata anche. Ah beh, fantastico. West Side Story, America. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricane's blowing, always the population growing. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.